Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, iniziamo e grazie a tutte di essere venute e buona Audre Lorde a tutte. Ho sempre voluto essere uomo e donna insieme, dare corpo alle parti più ricche e forti di mia madre e mio padre dentro me, far convivere sul mio corpo valli e montagne, così come sulla terra convivono colli e picchi. Vorrei entrare in una donna come può farlo qualsiasi uomo ed essere penetrata, lasciare ed essere lasciata, essere calda e dura e morbida allo stesso momento. Il nome del nostro amarci. Mi piacerebbe avanzare, altre volte fermarmi o essere guidata. Quando gioco seduta nell'acqua del bagno, mi piace sentire le più profonde parti di me, scivolose e avvolgenti e delicate, profonde. Altre volte mi piace fantasticare sul nucleo, la mia perla, una parte sporgente di me, dura e sensibile, vulnerabile, in maniera diversa. Ho sentito l'antico triangolo, madre, padre, figlia, con io al suo eterno centro, allungarsi e appiattirsi dentro la triade graziosamente forte di nonna, madre, figlia, con l'io che si muove avanti e indietro, fluendo in una o entrambe le direzioni, a seconda del bisogno. Donna per sempre. Il mio corpo una rappresentazione vivente di altra vita, più vecchia, più lunga, più saggia, montagne, valli, alberi, rocce, sabbia e fiori e acqua e pietra, fatta in terra. Allora, grazie a Nancy che sarà, oltre che relatrice, la nostra voce narrante. E la narrazione sarà Zami di Audre Lorde, così riscrivo il mio nome, una biomitografia. Intanto ho ringraziato già voi, ma ringrazio le donne che sono venute qua stasera con noi, le nostre relatrici, per parlare insieme di Audre Lorde e delle opere, dell'opera in questo caso di Zami, ma del pensiero di Audre Lorde. E di quello che evidentemente suscita in ciascuna di noi. Per chi non ha letto il libro, questi piccoli stralci di lettura probabilmente saranno delle caramelle, dello zucchero, del miele che scende. Chi è Audre Lorde? Audre Lorde ha sfidato il razzismo, l'omofobia, il sessismo, il classismo con un grande impegno, con efficacia, e riuscendo ad attraversare tutti i movimenti sociali che in quel momento emergevano, cioè la seconda metà del Novecento, emergevano negli Stati Uniti. Ma non solo questo, Audre Lorde era profondamente convinta ed era un internazionalista, al punto che è riuscita non solo a collegare le donne statunitensi, le donne caraibiche, dove era la sua origine, la sua provenienza, anche se erano genitori, lei era nata negli Stati Uniti, e l'Europa, in Germania in particolar modo, si è spesa contro l'apartheid in Sud America e l'apartheid per le donne, e poi Nuova Zelanda, Australia, eccetera. Come si definisce Lorde? Si definisce nera, lesbica, femminista, guerriera, poeta, madre. In questo c'è appunto l'identità, la ricerca dell'identità e della molteplicità dell'identità, quindi essere tante cose e con una conflittualità che probabilmente queste stesse diverse sfaccettature dell'identità potevano rappresentare, e ne parleremo, E perché nella diversità, la diversità era la casa da abitare, così come diceva Orta. Quindi lei diceva: non dobbiamo diventare l'una simile all'altra per lavorare insieme. È meraviglioso imparare. Io non sono sola. E ancora, noi siamo le donne che desideriamo diventare. Quindi questo è sul, cioè veramente pochissime cose sull'Ord, ma per inquadrare la complessità di questa grandissima donna. E Zani, lei ha scritto, ha terminato di scrivere, cioè ha 23 anni, quindi insomma, voglio dire, tanto di cappello, per chi lo leggerà, per chi l'ha letto, per chi lo leggerà, è veramente rappresentativo del suo pensiero, anche se è una, appunto, una semplice biografia, che semplice non è. Intanto, e vorrei presentarvi rapidamente, non sta a me il compito di parlare del libro, ma alle nostre intervenute, alle donne che sono intervenute per farlo insieme, e però un ringraziamento particolare per me è Aliana Borghi, che si è presa l'onere e anche l'onore di far pubblicare questo libro, di occuparsene e di volerlo fortemente. Per me, finalmente, che non parlo inglese, non parlo francese, non parlo tedesco, popolo italiano, finalmente posso leggere. E devo dire che il 2014, noi diciamo, è stato un anno estremamente fortunato, perché oltre a Zani ha visto la luce anche Sorella Outsider, e sono gli scritti politici di Audre Lorde, dove troviamo anche I diari del cancro e non solo, insomma tante cose. Quindi una grande fortuna. Chi è Aliana Borghi? Vorrei dire qualcosa su di lei, perché, se mi consenti, Aliana è stata ed è tuttora, io la definisco così, una donna ponte, nel senso che è nel suo andare, nel suo migrare negli Stati Uniti, nel suo occuparsi di letteratura inglese, ci ha permesso e ha introdotto in Italia le teoriche statunitensi che altrimenti non avremmo conosciuto. Cura Altera e le edizioni ETS, e infatti ha fatto pubblicare vari saggi, e di questo appunto le siamo grate. Ma non solo questo, Liana è da sempre una convinta associazionista, se posso usare questo termine. Io la ricordo da tanti anni con la Mandorla a Firenze, per esempio, che era un'associazione di donne alla libreria di Firenze, e con la Mandorla, che era un'associazione di donne e di lesbiche, e poi nei vari convegni ai quali sono stata, e dove lei era sempre, era un onnipresente, però era una certezza. Non solo, è socia fondatrice della Società Italiana delle Letterate, è stata docente universitaria. Lo sei ancora, Aliana? No, sono in pensione. C'è un'altra pensionata d'oro qua, e soprattutto d'oro, sì, e quindi ecco, questo è per quello che riguarda Liana. Sul suo percorso incontra un altro pezzo da 90, che è Simonetta Spinelli. Ora non so se vi siete mancati, se tutte conoscete i due pezzi da 90 qui stasera, però Simonetta Spinelli, queste sono le sue definizioni, insegnante dal 2010, anche lei in pensione, ha detto che non è d'oro, ma va bene così. E Simonetta invece nasce politicamente nel gruppo di Pompeo Magno, gruppo collettivo storico di Roma, con il quale ha collaborato per organizzare convegni femministi e lesbici e per altre attività del movimento. Per ben 11 anni è stata, ha fatto parte della redazione di WWF, del centro studi di WWF, e sulla rivista ha pubblicato anche dei suoi articoli con recensioni sul lesbismo, sulla politica e soprattutto, una cosa che interessava a me, sulla fantascienza delle donne. Negli anni 90, e ritroviamo Liana insieme a lei, organizza con Liana Borghi Lavori in Corso, del quale anche io ho fatto parte ed è stata una esperienza per me molto importante. E che erano seminari itineranti di studi lesbici, e poi lavora ed è cofondatrice del gruppo linguaggio e del coordinamento lesbiche romane per il centro femminista separatista della Casa Internazionale delle Donne. Ma non finisce qui. Dal 2002 al 2005 si occupa, sempre insieme a Liana, della rubrica in teoria per la rivista Tuanda. Non dico altro. E poi da allora si occupa della tutela dei ragazzi stranieri e dei diversamente abili nelle scuole. Ha fatto varie incursioni e convegni lesbici a Roma, Bologna, Milano, altrove, e poi sempre con Liana e con Clotilde Barbarulli a Villa Fiorelli e a Giardino dei Ciliegi, l'associazione Giardino dei Ciliegi. Hanno pubblicato e insieme, poi basta, non le voglio incensiare più, hanno pubblicato insieme varie cose, poi se ce lo vorranno dire ce lo diranno, basta così. Detto questo, io mi avvio a presentare le altre due relatrici. Voglio dire una cosa che per noi è estremamente importante. Come coordinamento lesbico romano abbiamo sempre privilegiato nel fare politica le relazioni con le donne, le relazioni con le donne lesbiche, quindi le relazioni politiche. Ecco, questi due esempi siamo stati in relazione nel fare delle cose. Qui in sala c'è anche Pina Nuzzo, con la quale abbiamo fatto un sacco di cose, cioè abbiamo proprio questo tipo di modello. Grazie Caterina. Abbiamo quindi Elena Virgini, con la quale lo stesso abbiamo avuto vari incontri, e Elena attivista cofondatrice di Azione Gay e Lesbica di Firenze. Sei arrivata dopo, non è cofondatrice, però hai fondato Novat insieme ad altre. Facciamo breccia e con Novat le varie manifestazioni contro il Vaticano. Attualmente è nella redazione del martedì femminista e lesbica autogestito della Onda Rossa, e questo è l'altro elemento di incontro che noi abbiamo. Anche prima abbiamo avuto altri momenti di incontro, ma questo in particolare adesso qui a Roma. E infine arriviamo alla nostra voce narrante, che è Nancy. Io sono di origine siciliana, sono guerriera, sono lesbica, sono madre di pelo, mi sono definita anch'io. Nancy intanto ha fatto nel tempo insieme a un gruppo che adesso si è sciolto, però è stata un'esperienza molto importante per lei. Erano le connettive e hanno fatto un progetto che poi è stato finanziato, no, dalla comunità europea, di un gioco interattivo che si chiamava She Game, ed era un gioco interattivo per soprattutto le scuole, dove si andava a ricercare, quindi una ricerca storica estremamente seria, su donne importanti nella storia, che fossero le pirate, che fossero eccetera eccetera, matematiche, bucaniere, varie cose, e quindi poi hanno fatto questo lavoro. Dopodiché anche Nancy fa parte della redazione del martedì femminista e lesbico autogestito, e lì facciamo un lavoro insieme. E non solo, insieme a Nancy e alcune di noi hanno costituito ormai da anni un gruppo che si chiama Kesvilè, anagrammando lesbiche, che è un gruppo che crea uno spazio, diciamo, ludico-culturale, ma comunque di incontro delle donne per e tra donne lesbiche, che ogni terzo venerdì del mese si incontra qui alla Casa Internazionale delle Donne con varie iniziative. E questa è la presentazione delle persone che sono qui con noi stasera, e dopo andremo alle domande. Ma adesso, così come abbiamo anticipato, un altro pezzo, un'altra lettura. Mia madre è una donna davvero potente. e lo era in un periodo in cui la combinazione di parole donna e potente era quasi impronunciabile e inesprimibile nelle lingue comune, nella lingua comune bianca americana, tranne o purché affiancata da qualche aberrante aggettivo esplicativo come cieca, gobba, pazza o nera. Perciò, mentre crescevo, donna potente equivaleva a qualcosa di molto diverso da donna ordinaria, dal semplice donna. D'altro canto, di certo, non equivaleva a uomo. Allora cos'era? Qual era la terza denominazione? Da bambina ho sempre saputo che mia madre era diversa dalle altre donne, nere o bianche. Credevo che fosse perché era mia madre. Ma diversa come? Non ne sono mai stata sicura. C'erano altre donne delle Indie occidentali in giro, molte nel nostro vicinato in chiesa. C'erano anche tante donne nere, con la pelle chiara, come la sua in particolare, fra le donne della parte bassa dell'isola. Le chiamavano red bone, ossi rossi. Diversa come? Non l'ho mai saputo. Ma per questo credo, ancora oggi, che ci siano sempre state lesbiche nere, nel senso di donne potenti e orientate verso le donne, che sarebbero morte piuttosto di usare quel nome per definirsi, mia madre inclusa. Ed ecco, andiamo alla prima domanda che ovviamente poniamo a Liana. Ovviamente domande, ma è più un dialogare tra di noi che non un domandare, però ci corre l'obbligo di chiedere a Liana qualcosa sull'opera che tu hai voluto fortemente e che noi, wow, siamo felicissime. Allora, detto questo, da che cosa nasce per te l'esigenza di tradurre, di far tradurre, di pubblicare in Italia Zani? E vuoi dirci qualcosa su questa biografia straordinaria? Vorrei anche ricordare che la traduzione, no? Tranquilla. Le parole che avete sentito finora, grazie per averle lette così bene anche su Radio Barossa, sono in realtà di Grazia Di Canio, che è una delle desiderande e in questo momento sta facendo il dottorato in Svezia. E da appena a Natale, mentre finiva velocemente la traduzione di Zami, stava nascendo il bambino che la sua compagna aveva stava sfornando in quel momento. Quindi in questo libro c'è anche una nascita di un bambino molto bello che forse vedete in internet o su Facebook se andate a cercare Grazia Di Canio. Quindi le parole che voi leggerete se leggete il libro o che avete sentito sono in realtà la voce di Grazia, non completamente, perché questo lo devo dire, forse non so, in questo luogo così pieno di donne forse non dovrei dire che anche due uomini, anzi tre uomini, hanno messo la mano in questo testo, ma in realtà così è stato, perché la collana che io dirigo per ETS, che si chiama Altera, è una collana co-diretta da Marco Pustianaz, che è uno dei miei amici, collaboratori e uno, credo, dei migliori studiosi queer in Italia, un anglista anche lui e non soltanto. L'altra persona è stata, e naturalmente Marco è arrivato a questo libro l'ultimissimo giorno, perché tutti credevamo che lui avesse letto la traduzione, lui in realtà non l'aveva mai ricevuta per tutta una serie di disguidi. Il vero editor è in realtà Giovanni Campolo di ETS, che è uno dei bravi attivisti di Arci Gay di Pisa, non soltanto questo, ed è proprio dentro la casa editrice ETS. Quindi questo, il testo di Grazia è stato visto, rivisto, rimesso in 100 modi diversi, sempre dicendo tra di noi, andando avanti e indietro sulle poste, eccetera, eccetera, dicendo: mi raccomando, Grazia, abbiamo deciso che la voce di Audrion Lord deve essere quella, è bene che tutti noi cerchiamo di imitarla il più possibile. Ora, voi sapete che quando si fa una traduzione è molto difficile imitare una voce che parla in un'altra lingua, specie come in questo caso, che è la voce di una grande poeta, una delle più grandi poete nere americane, non soltanto americane. Quindi quello che vi chiedo, se mai arriverete a leggere la versione italiana di questo testo, è: uno, di pensare a Grazia, che era, è stata con noi varie volte, che è andata anche a Bari, ma che anche a me oggi non c'è. Due, il fatto che con grande amore e senso di compartecipazione altre persone hanno messo le mani in questo testo, anche finanziandolo, perché chiaramente era una cosa fatta in questo modo. E poi l'altra cosa, secondo me, assolutamente fondamentale, è stata che questo è stato un libro estremamente difficile da tradurre, perché alle nostre spalle c'era quel capolavoro che è qui, che è la traduzione di Sorella Outsider, fatta, come voi già sapete, non soltanto, scusate un po' un problema con la voce, da Margherita Giacobino e da Gianelli Guida, che ha lavorato insieme a lei, ed è un testo splendido, ben fatto, molto curato, con delle note ottime, però state ben attenti perché è il testo che noi volevamo fare e quando siamo andati a chiedere i diritti erano già stati venduti, ma noi non l'abbiamo visto in realtà, perché è uscito quando il nostro testo praticamente era già in stampa. Quindi, non so, è stato, e in realtà Margherita non ha mai voluto dialogare con noi. L'unica volta che io l'ho incontrata, nonostante ci conosciamo da anni, è stata a Milano, quando l'altro salone, quando abbiamo fatto la nostra presentazione lì. Quindi, adesso vi ho detto una piccola cosa. L'altra cosa che devo dire è che è maledettamente difficile scrivere qualsiasi cosa su Audre Lorde e su Zan. Perché se voi andate in internet c'è di tutto, di più, ci sono decine di libri, lei è veramente diventata un'icona globale, letteralmente, tutti la nominano. Io sono appena tornata da un convegno all'Istituto di Rosa Luxemburg a Berlino, per un convegno su marxismo e femminismo, e lei è stata letteralmente citata praticamente da ogni persona che parlava. È stata citata un po' perché chiaramente per la sua meravigliosa politica, chiamiamola interculturale, chiamiamola anche in questo senso, ma anche moltissimo per via del discorso sulla intersezionalità. Non voglio fare le cose difficili, voglio soltanto dirvi che quando Lucilla parlava dell'identità e del fatto che per Audre Lorde la casa, bisogna abitare la casa delle differenze, una delle cose importanti, anzi importantissime nella sua teorizzazione, che voi trovate dappertutto e tra l'altro meravigliosamente espressa in uno dei saggi qui che lei ha letto a Harvard, parlando di Malcolm X, quindi un discorso chiaramente sulla politica dei neri, il razzismo e cose del genere. Se voi andate a leggere il modo in cui lei parla delle differenze, capirete che la cosa assolutamente fondamentale che ci riguarda da vicino è che non si tratta di una serie di strati uno sopra l'altro che noi viviamo, è stato il discorso dell'intersezionalità, di come cioè le differenze si intrecciano e di come è complicato, pensate per un attimo a voi stesse e di come tutte le cose che appartengono alla vostra vita, il modo in cui vivete, il posto dove siete nate, come vivete adesso, chi conoscete, cosa sapete, cosa leggete, cosa fate, la vostra politica, le vostre politiche, il vostro senso di identità, come queste cose sono aggrovigliate, ed ecco la nuova parola, chiamiamola nuova, che sta girando adesso l'Europa in collegamento, non solo l'Europa, anche l'America in collegamento con Audre Lorde, è una parola tradotta in italiano da Perilli, dal nostro Vincenzo Perilli e altre, come un groviglio. Cominciate a pensare a noi stesse, a voi stesse, con un groviglio di identità e cercate di capire un attimo dove questo vi sposta e come cambia il vostro modo di vedervi. Quindi non soltanto bianca, nera, lesbica oppure alta, bassa e così via, mettetecelo tutto insieme e vedete come c'è veramente un groviglio di soggettività che tra l'altro si modifica nel tempo e nello spazio. Allora, tutto questo nei testi di Audre Lorde compare meravigliosamente bene. questo io adesso, una delle cose più belle che mi potrebbero succedere sarebbe di lavorare con qualche un altro sui testi di Sorella Outsider, ma questo purtroppo questa volta non mi tocca. Mi tocca invece il libro con tanto amore scelto e curato che è Zami. Allora, perché questi due libri, infatti li ho portati tutti e due nonostante pesassero insieme al resto, perché sono in realtà un libro solo? Perché sono stati scritti insieme? Successe questo, ve lo dico velocissimamente perché in questo testo non c'è, ma c'è invece in Sorella Outsider. A un certo punto della sua vita, nel 78, a Audre Lorde capita di avere un problema al seno e le viene diagnosticato un tumore che poi in realtà non ha, in quel momento è benigno, le fanno una biopsia, eccetera, eccetera. E lei scrive questo saggio stupendo, assolutamente bellissimo, che parla in realtà della necessità di dire, di parlare delle cose. E in questo testo, praticamente, lei dice anche che, come poi dirà molto meglio in seguito, avere un tumore al seno è un discorso politico che noi dobbiamo indagare e fare, rientra tra l'altro nel groviglio di identità di cui adesso si parla tanto. Comunque a questo punto decide che è il momento di scrivere qualche cosa per sé, sente veramente che è successo qualcosa della sua vita per cui lei è in pericolo, se lo è sempre stato come donna nera, con tutte le cose che potete immaginarvi con il razzismo negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, però decide di scrivere una autobiografia e scrive un testo assolutamente unico e considerato tale nella storia della letteratura, perché questa, come diceva Lucilla, è una autobiomitografia. E come adesso avete già sentito, il fatto stesso di collegarsi immediatamente non soltanto al discorso lesbico, ma al discorso lesbico fatto in un territorio molto specifico che alcuni di voi forse conoscono, e cioè Grenada, che è una piccola isola nei Caraibi, che è stata per secoli, quasi per 500 anni, diciamolo pure, uno dei luoghi di approdo delle navi dei negrieri, dove naturalmente gli schiavi radunati in Africa venivano portati per poi essere ridistribuiti altrove, eccetera, eccetera. Quindi l'autobiomitografia è naturalmente un'autobiografia costruita su delle radici africane, che sono naturalmente mitiche. Lei nel 74, io sto parlando adesso praticamente del 79, lei nel 74 aveva passato con la sua compagna, aveva già lasciato suo marito, lei era stata sposata per un periodo con un gay, tra l'altro, e aveva avuto due figli, un maschio e una femmina, di cui poi racconta appunto in Sorella Outsider. A questo punto lei se ne va in Africa e va alla ricerca delle, diciamo così, non soltanto delle sue radici, quindi va a cercare i luoghi, non so, di raduno degli schiavi, poi erano partiti, eccetera, eccetera, ma questo ora non ve lo racconto, ma soprattutto incontra la cultura Yoruba, e in particolare lei, che era diventata femminista, femminista nera, eccetera, trova veramente per il suo lesbismo e il lesbismo femminista un aggancio mitico fortissimo che poteva trasmettere e usare come praticamente una nuova forma, una spiritualità nuova, non soltanto per sé ma per le altre. E da questo momento lei poi scrive tutta una serie di libri di poesie, sono 9, 10 e così via. Voi troverete dappertutto intrecciato con queste poesie assolutamente splendide, ma crudelissime, difficili da leggere, che fanno male o fanno bene, un paio li sentiremo, intreccia i miti africani. Quindi quando lei scrive questo libro, scrive un libro che vi sembrerà molto strano, perché non è fatto come una autobiografia, tutt'altro. C'è il mito che si intreccia dappertutto, ci sono i sogni che diventano quasi realtà, c'è una critica alla situazione dei neri americani di quel periodo, alla storia della sua vita. Lei, come avete sentito Lucilla raccontare, lei è figlia di due caraibici immigrati nel periodo della depressione, stanno tutti a Harlem, sapete che Harlem è uno dei luoghi dove abbiamo anche avuto un meraviglioso rinascimento negli anni 20, ma poi la situazione è andata sempre peggiorando e lei se la sta vivendo. È anche una situazione dove lei praticamente ha tutta una serie di difficoltà. Ricordatevi che Audre Lorde non era una bambina qualsiasi, e non perché fosse un genio, ma perché era ipovedente, perché praticamente, come si dice quando uno scrive con la sinistra? Era mancina. Grazie. Era mancina, era sempre molto grassa, era brutta. Aveva due sorelle più bianche di lei, mentre lei era molto scura, e questa madre che passava per bianca, quindi già capite altre cose, un padre bellissimo, grande, alto, splendido, che lei adorava da una parte, ma che in realtà era un padre un po' particolare, come magari troverete. Quello che trovate nel libro è un racconto della sua infanzia, la storia di come lei poco per volta comincia a studiare, i suoi primi amori, diciamo così, la difficoltà di trovare lavoro, il fatto poi di andare a lavorare in una fabbrica, in realtà, dove lei adopera, cosa faceva lei? Tagliava i cristalli, per cui era praticamente, se poi le si sviluppa un cancro, questo probabilmente è dovuto anche, da questo. E poi a un certo punto c'è due cose splendide. Mentre lei lavora, comincia il suo primo rapporto sessuale con la sua compagna, amica, dentro questa fabbrica, che è anche una storia abbastanza strana, e lei cerca di mettere i soldi da parte per andarsene in Messico, che è il suo sogno. E quando arriva in Messico, dove lei si iscrive all'università e per un anno vive a Cuernavaca, entra in contatto con una serie di persone espatriate dagli Stati Uniti, nel momento che sotto McCarthy, naturalmente, non soltanto, come potete immaginarvi, i gay venivano demonizzati, ma erano totalmente demonizzati quelli di sinistra, in particolare i comunisti, come lei aveva già sperimentato, perché aveva già cominciato a lavorare sui diritti dei neri, e non soltanto, i diritti civili in generale. A questo punto ha una storia d'amore, che è una delle cose più belle del libro, assolutamente, con una giornalista alcolista che a un certo punto la sbatte fuori di casa, e lei a quel punto ritorna a New York. E notate che stiamo parlando dei primi 20 anni della sua vita, no? Nient'altro. Poi lei torna a New York e comincia naturalmente a frequentare i bar gay e lesbici. Ora alcune cose le sentiremo tra un attimo, e alla fine il libro si chiude con questo incredibile incontro con quella che, se leggete il libro lo riconoscerete immediatamente, è una personificazione di Afrekete, cioè di una dea Yoruba, che in realtà una ragazza anche poco affidabile, che poi la pianta e se ne va naturalmente, ma l'ultima parte del libro è veramente un'apoteosi lesbica, di tutto, va bene, non dico altro perché poi lo sentirete. Allora, chiudo questa lunga preparazione, che credo vi basti, spiegandovi allora com'è costruito il libro. La prima parte è la mia introduzione, molto storica, molto terra terra, perché bella, sì, grazie, ma molto storica terra terra, dove io dico insomma il giusto, così. E poi la cosa per me assolutamente, il lavoro più vero, faceva caldo, non è che avessi molta voglia di farlo, per dire la verità. Allora, cosa stava succedendo in quel momento? Io convivevo non tanto con Simonetta Spinelli e Teresa De Lauretis, che negli anni avevano condiviso Audre Lorde con me, ma con Rosanna Fiocchetto, perché era stata Rosanna a tradurre, quando ai tempi dei tempi noi avevamo dei gruppi che lavoravano tutti insieme, a tradurre Audre Lorde. E io tornavo indietro negli anni 70, inevitabilmente, questo libro è stato scritto nel 79, voi capite cosa voleva dire, io ero lì, l'ho conosciuta Lorde, eccetera, eccetera. Allora, a questo punto io dovevo assolutamente far vedere cosa stava succedendo in Italia mentre Audre Lorde scriveva. E quindi ho cercato di fare un lavoro molto imperfetto, perché per far vedere che l'anno tot Lorde stava facendo questo e stavano succedendo delle cose, e in Italia intanto veniva tradotto questo, oppure c'erano delle cose che noi avevamo sentito, e così. Ecco, quindi il libro si costruisce in questo modo. Se vi interessa, cercate di andare a trovare voi stesse, la vostra vita, quello che sapete, la vostra cultura, nelle ultime pagine, per capire quanto di Audre Lorde abbia vissuto e convissuto con noi negli anni senza che noi le abbiamo dato merito per la sua presenza. Grazie. Grazie Aliana, e partiamo con l'altra voce narrante. Volevo legarmi al discorso che faceva prima, questo pezzo che leggo non è Inzami, però veramente per me Lorde in primis è una poeta, se devo essere sincera, quindi e questo è un suo piccolo scritto sulla poesia. La poesia non è un lusso, è una necessità vitale della nostra esistenza. La poesia cita a modo di nominare ciò che non ha nome, così da poterlo pensare. Fino ai più lontani orizzonti, le nostre speranze e paure sono lastricate di poesia, tagliata nella roccia delle nostre vite quotidiane. Perché i padri bianchi ci hanno detto «penso, dunque sono». La madre nera dentro di noi, la poeta, ci sussurra in sogno «sento, dunque posso essere libera». Volevo leggere una poesia di Lorde. Arrivai dalla vallata ridendo di nerezza, in alto, nella bocca delle montagne sono sorta, in pianto e addiaccio, intralciata dalle anime avvinghiate di uomini morti, scossa da riverberi di minuti vani, anni non nati. Fui la storia di un popolo fantasma, fui la speranza di vite mai vissute, fui il prodotto pensato della vuotezza dello spazio e lo spazio nel cestino vuoto del pane. Fui la mano tesa verso il sole, la pelle arsa in cerca di sollievo. E là, all'albero del lutto mi hanno impiccata, il sentimento perduto di un popolo irato mi ha impiccata, scordandosi con quale facilità potevo sorgere ancora. Bene, a Nancy chiediamo, perché Nancy ha iniziato questa lettura Inzami per Radio Onda Rossa, veramente per il martedì femminista e lesbica autogestito di Radio Onda Rossa, e quindi lei è stata fortemente motivata a fare questo tipo di lavoro dopo aver letto Zani. Allora la domanda che facciamo a lei è: perché hai deciso di leggere Zani, quindi fare un lavoro lungo di anche meditazione su Zani, e che cosa ha significato per te? Brevemente, perché veramente non voglio togliere lo spazio all'altra, diciamo, alle altre, però insomma, tolgo. Allora, perché leggere Zami in radio? Allora, innanzitutto due cose mi vengono in mente. Io sono andata due volte a New York. La prima volta sono andata, che ero molto giovane, e ci andai con la mia compagna di allora, che oggi non c'è più, ma che saluto, dovunque lei adesso sia, e fu un viaggio più, diciamo, di musei, insomma, un pochino più intellettuale. La seconda volta andai con un mio amico gay, e lì fu un pochino più friccicorino il viaggio, e mi ricordo che andammo al Village, andammo allo Stonewall, così, e poi andai in questa libreria. E nella libreria vidi, che fra l'altro la copertina è... Quella. È questa la copertina dell'originale, insomma, diciamo così. Sì, lo vidi in questo scaffale, in questa libreria, chiaramente a tematica gay lesbica. E io Lorde la conoscevo, ma come la conoscevamo tutte noi, scritti un po' qui e lì, perché è vero quello che dice Liana, cioè comunque su internet chi... diciamo la tradotta, quindi l'uso dell'erotico, insomma tante le poesie che io ritengo che siano veramente, io sulle poesie mi perdo parecchio, e quindi per questo ho voluto fare la citazione, e ho deciso di prenderlo, dico vabbè, lo compro. Conoscevo Lorde in maniera naturalmente molto così, insomma, elementare, e l'ho comprato. Solo che avere in libreria un libro che non legge è un po' frustrante, allora l'ho regalato, dico, perché come Lucilla non so parlare, fosse stato in siciliano l'avrei letto, ma non conoscendo l'inglese, e quindi l'ho regalato a un'amica, comunque, in buone mani. Quando ho saputo di questo, quindi per me è stato finalmente dopo anni, no, io me l'ero comprato, finalmente lo posso leggere. Ed è bello, ed è un bel libro. Perché? Perché, come ha detto Liana, poi ci dà la possibilità poi di... Cioè, non si possono eliminare, cioè l'uno va con l'altro, perché per forza di cose è così. Mi sono appassionata, finalmente conoscevo Lord dalle sue parole, quindi non da chi l'aveva aveva tradotta o magari insomma l'aveva anche conosciuta, quindi dalle sue proprie parole, dalle sue emozioni, dal suo vissuto. E poi devo dire, è stato importante quando abbiamo presentato Zami in radio, quindi nel novembre con Liana, è stata veramente una bella trasmissione. Mi sono ancora di più appassionata a questa cosa, e allora parlando con Elena e anche con le altre compagne della radio, abbiamo deciso di fare, insomma, di leggerlo. Mi veniva in mente, insomma, il radiodramma, no, che è nato nell'Inghilterra degli anni 20, che poi anche in Italia la radio usava questo, erano testi teatrali che venivano narrati, io me li ricordo, ed era affascinante sentire la voce di chi narrava. Adesso ci sono gli audiolibri, però in radio questa cosa me la ricordo che mi piaceva quando ero bambina, e mi ricordo le voci di chi leggeva delle cose in radio, e allora ho voluto sperimentare questa cosa. Ed è vero che poi leggere, comunque, è vero che in radio si legge per qualcuno, ma essenzialmente poi sono io che leggo e lo rileggo per me stessa. Me ne accorgo ogni volta che lo preparo a casa, preparo le pagine, le musiche, no? Che poi insomma un po' di interruzione ci vuole. Però ogni volta che poi mi trovo in quello studio e poi c'è un'altra compagna, che è Elisa, che mi accompagna al mixer, mi rendo conto che io poi mi sento da sola, nonostante io lo stia leggendo, spero a qualcuno che poi possa veramente... E mi dà un'intimità particolare ogni volta rileggerlo al microfono. E ho trovato che è veramente un'esperienza bella, devo essere sincera, egoisticamente per me che lo faccio. È un'esperienza che mi piace. E torno a dire, insomma, lo rifarei, insomma, però bisognerebbe trovare un altro libro. Un altro testo che potrebbe appassionare, e quindi devo a lei, devo a quell'intervista con Liana, il fatto di aver poi deciso di dedicare, insomma, questa esperienza radiofonica, insomma, la lettura radiofonica. Ringraziamo. Grazie a voi. Grazie a te. Allora, come avrete capito, adesso ci sarà un altro pezzo della Tazzana. Nere o bianche, chichi, butch o fam, l'unica cosa che avevamo in comune e in proporzioni variabili era l'azzardo a connetterci in nome della donna, e lo consideravamo una forza piuttosto che un problema. Tutte noi che condividemmo quegli anni dovevamo essere un po' strane. Passammo così tanto tempo in gioventù a cercare di definirci come donne identificate con le donne, ancor prima di scoprire che quelle parole esistessero e prima che ci fossero orecchie interessate ad ascoltarle fuori dal nostro ambiente. Tutte noi che abbiamo condiviso quegli anni dobbiamo esserne un po' fiere, molto fiere. Restare in piedi, seppure traballanti, senza perderci per strada, è stato come suonare un canto di guerra di Nizulu o una sonata di Beethoven con un fischietto per cani. Il messaggio importante sembrava essere che dovevamo avere un posto nostro. Rispecchiassi o meno chi sentivi di essere, doveva esserci un posto dove fare rifornimento e controllare il motore. In periodi di bisogno e di grande instabilità, questo posto diventava più questione di definizione che una sostanza. A volte il rifugio diventava la realtà preminente. Gli scrittori che si mettevano in posa nei caffè, parlando all'infinito della loro opera senza scrivere due parole, le lesbiche virili come uomini che odiavano a oltranza le donne e il loro essere donne, i bar e i caffè e le strade del village negli anni 50 erano pieni di anticonformisti che morivano dalla paura di andare contro il gruppo da loro faticosamente conquistato, e quindi alla fine erano divisi fra il gruppo e i loro bisogni individuali. Per alcune di noi quel particolare posto non esisteva e si afferrava il possibile in qualsiasi posto trovassimo spazio, conforto, pace, un sorriso, assenza di giudizio. Essere donne insieme non bastava, eravamo diverse. Essere ragazze gay insieme non bastava, eravamo diverse. Essere nere insieme non bastava, eravamo diverse. Essere donne nere insieme non bastava, eravamo diverse. Essere lesbiche nere insieme non bastava, eravamo diverse. Allora, ad Elena che è un'attivista ed è sempre sulla breccia, anche se facciamo breccia non c'è. Non sa neanche dove attivarsi perché insomma. Però ci prova. E la domanda è: razza, lesbismo, classismo e politica, in che modo si intersecano per te nel libro di Lord? Intanto ringrazio perché sono contenta di essere qui, perché sono, come dire, legata a rapporti di stima, di politica, d'amore, a senso lato, insomma, alle donne che sono dietro a questo tavolo e a quelle che sono di là. Però insomma, ancora non ho capito bene perché io devo parlare di Lord oggi, no? Nel senso che io sono banalmente una lettrice di Lord. E pensavo oggi, pensando che dovevo venire qua, a quanto questa assenza della parola tradotta in italiano di Lord abbia costruito tra noi lesbiche italiane, comunque italianofone, una figura ancora più mitica, perché di Audre Lorde si è parlato sempre negli ultimi 30 anni, ma poche di noi l'avevano letta nella realtà, e avevamo letto tutte l'uso dell'erotico, perché appunto era passato sul bollettino e tradotto da Rosanna Fiocchetto e ripubblicato in varie raccolte, fra l'altro sempre in quella traduzione, e poi qualche sprazzo, no? Ogni tanto una frase che, se la decontestualizzi da tutti gli scritti di Lord, diventa un po' come l'oracolo, tipo non si può distruggere la casa del padrone con gli strumenti del padrone. Una delle frasi che arriva così e te la interpreti nel niente, non leggendo quello che c'è intorno. Qualcuna di noi, insomma, io mi sono cercata i saggi spagnolo, perché lo spagnolo lo leggo a differenza dell'inglese, mi sono cercata Zami in francese, perché il francese lo leggo a differenza dell'inglese, ma le letture singole non sono letture collettive. Non so come dire, nel senso, il fatto che non circolassero in italiano ha impedito che ci fosse una lettura collettiva su questi testi, e il filtro poi diventava troppo, cioè i saggi in spagnolo li ho letti, ma Zami in francese mi sono resa conto che erano troppi filtri, cioè già non lo leggevo nella sua lingua e poi nemmeno nella mia, cioè diventava una terza, cioè mi sembrava troppo lontano per un'opera così fortemente poetica come poi Zami. E quindi, insomma, di questo mi accodo, non possiamo che ringraziare Liana anche per le mani che ci ha messo, perché ovviamente lei ha citato chiunque, eccetto se stessa, per quelle mani messe nella traduzione, nella cura del libro, quindi lo faccio io. Perché anche è un testo, se non l'avete visto e lo vedrete, fatto con estremo amore, si sente, insomma, con estrema cura, con estrema dedizione proprio a quello che si sta facendo, anche perché immagino che sia, insomma, una responsabilità non da poco, ecco, proporre dopo 30 anni la traduzione di Zami. In questo, allora, ricordiamo, e appunto pensavo a questo oggi, a quanto questa assenza poi di fatto abbia costruito tra di noi un mito, rotto da alcune parole dette, perché ricorderò una cosa soltanto, oltre all'articolo tradotto, o il saggio tradotto da Fiocchetto, il convegno del 2006 organizzato da Fuori Campo a Bologna, che insomma ha permesso a molte di noi di conoscere di più di Lord rispetto a quello che conoscevamo prima di quel convegno, che fu bello, con un sacco di interventi molto importanti, insomma, anche presenti qui oggi. E poi ci siamo ovviamente appunto il 2014 è stato l'anno per l'Italia di Audre Lorde, assolutamente fuori tempo, ma è stato quello l'anno. E quindi in qualche modo ci siamo ritrovate davanti a queste parole e abbiamo anche potuto confrontarci collettivamente su queste parole per la prima volta. Lo abbiamo fatto anche a Firenze, ad esempio a febbraio, una giornata organizzata al Giardino dei Ciliegi intera insomma su questi testi. A me, insomma, che interpreto la parola lesbica con un significato politico, anche se appunto ho difficoltà ad metterci attivista perché non so più dove attivarmi, ma questo è un altro problema. Questo è un altro problema di cui forse un giorno potremo occuparci anche insieme, ma la cosa che io ritengo sia questi testi, questi due testi che sono effettivamente lo stesso testo parlati forse con lingue diverse, io ritengo, per rispondere insomma almeno in parte alla domanda di Lucilla, che sia estremamente rilevante che ci siano in questo momento a disposizione di tutte e di tutti in italiano, perché proprio nel testo di Lorde, quella di cui parlava prima Liana, cioè l'intersezionalità, cioè la copresenza, la ragnatela delle oppressioni, viene fuori in una maniera, di una forza, un'evidenza, un'efficacia rara. E il fatto che non si può, cioè nel senso, non si parla del sessismo separato dal razzismo, separato dal classismo, separato dall'eteronormatività, e non si tratta neanche della sommatoria di queste oppressioni, ma si tratta della, è difficile dirlo insomma con una parola semplice, si tratta della contemporaneità. Quello che subì l'oppressione di una donna nera non è l'oppressione di un uomo nero, e contemporaneamente l'oppressione di una donna lesbica nera non è l'oppressione di chi non subisce l'eteronormatività, anche se credo nessuna non subisca l'eteronormatività, e così via. Credo che questo, in questo momento, se qualcuno o qualcuna soprattutto ha voglia di ascoltarlo, sia una, come dire, un'indicazione politica estremamente rilevante. Lorde scrive negli Stati Uniti e scrive quindi in un contesto, diciamo, multirazziale estremamente diverso dal nostro. Oggi noi abbiamo il fenomeno dell'immigrazione che fa della nostra società una società mista, che non lo era negli anni 70 quando il suo libro è stato scritto. È un misto diverso da quello degli Stati Uniti, perché ovviamente è diversa la modalità con cui le persone nere, latine sono presenti negli Stati Uniti. Ma alcune cose invece sono molto rilevanti qui oggi per noi. Io credo che semmai ci sarà un movimento lesbico o GLBT o un'altra cosa simile, ma diciamo un movimento lesbico degno di questo nome in questo paese, di questo si deve far carico. Cioè si deve far carico del fatto che, a mio avviso, non si può lottare contro l'eteronormatività, contro il sessismo e non contro il razzismo, così come non si può lottare contro il razzismo e non lottare contro, perché si tratta di dispositivi diversi ma correlati, e non farlo significa non portare avanti una lotta efficace. Io molto spesso mi sono trovata in dibattiti veramente inutili su questi argomenti, nel senso che sembra che quando le lesbiche, i gay, le soggettività LGBT parlano di razzismo, ne parlano per decidere se essere o meno solidali. È l'ultimo dei problemi, cioè non so come dire, cioè nel senso, non si tratta di essere buoni o di non esserlo meno, o di concedere, o di, poi a parte non si sa chi ci dà il potere di concedere qualcosa, ma insomma questo è un altro discorso. Ma si tratta appunto dell'efficacia di una lotta, cioè o si capiscono i meccanismi di subordinazione e di potere nelle loro correlazioni, oppure non si possono distruggere, non si possono combattere. E credo che Lorde oggi, al di là del fatto che ci possiamo leggere un libro poetico bellissimo che è Zami, ci serva a questo prioritariamente, e che nel nostro paese ce ne sia un bisogno immenso, ce ne sia un bisogno immenso tra di noi prima di tutto, cioè prima di tutto no, c'è chi sta peggio, ma insomma siccome partiamo da qua, e credo che in questo ci sia una fortissima attualità della presenza di questi libri, oltre al fatto che, e con questo chiudo perché ho detto lo volevo dire, insomma, che Zami è veramente, non lo dico per, come dire, in termini promozionali, è veramente un libro estremamente avvolgente dal punto di vista, quando leggi, appunto, lo leggi come testo di narrativa, come ascolti una donna che ti racconti, perché veramente questo fatto, per esempio, della lettura di Renzi rende anche molto molto chiaro come c'è un ritmo orale dietro alla scrittura poetica di Lord, e nella rilettura questo ovviamente balza alle orecchie in una maniera molto chiara. Basterebbe questo, insomma, per leggere un libro, e anche il fatto che è molto molto divertente andare a scoprire i bar delle lesbiche di New York negli anni 50, tutta una serie, insomma, di diciamo sottocultura, di underground lesbico che pochi libri ci raccontano, insomma, pochi libri tradotti in italiano, molti più libri in inglese e alcuni anche in francese. Basta, quello che volevo dire, ho detto. Io do due bellissime riflessioni. Allora, io l'ho letta ovviamente in francese, però è strano, perché questo è un libro che tira la traduzione, al contrario di altri dove tu leggi traduzioni diverse e sembrano libri diversi, o perlomeno abbastanza, mentre il ritmo, adesso sarà stata particolarmente brava la traduttrice, Liana l'avrà messi sotto sterzo tutti, per cui però è strano, è un libro che tira, è un ritmo del libro che ha attirato le traduzioni, perché è raro trovare delle traduzioni di cui senti che il ritmo si assomiglia. Non so, tu l'hai letto in francese, Liana? No, probabilmente perché ne avevi bisogno. Ho letto dei pezzi però in francese. E non ti sembra che questa... Soprattutto l'ho letto in spagnolo. No, in spagnolo l'ho letto. Ho comprato l'edizione spagnola per vedere come stavamo. Certo. L'altra cosa che volevo dire, agganciandomi al discorso di Elena, io credo che per fortuna leggiamo Lord adesso, perché questa, cioè, voglio dire, voi non vi rendete conto com'era l'Italia degli anni 70. Io e Liana ci siamo incontrate, per così dire, in una rissa, dove i termini, in una rissa, cioè, che era la fine 77 o 78, dove lei aveva cominciato questa sua opera di traduttrice, che poi diventerà il tentativo di svecchiare quest'Italia assolutamente provinciale, importando discorsi che in altri paesi hanno stati fatti da 10 anni. E che qui ci siamo trovati su una rissa di traduzione, perché lei traduceva per tutti, perché lì tutti ignoranti, quindi traduceva dal francese, dall'inglese, faceva altro che tradurre. A un certo punto, venendo dalla cultura anglosassone, no, ma questo è importante, ha tradotto separatismo come separatismo tra lesbiche e etero, e se, naturalmente quei Pompeo Magno che c'erano se la sono mangiata viva. Allora, quello che ha interrotto questa tragedia comica è stata una vocina piccola piccola di una ragazzina che aveva avuto 14 anni, 15 anni, che si è messa a strillare: non è vero, la mia mamma non traduce male, bloccando tutte le nel 77 in un convegno lesbico la madre e la figlia, scusate la mutolimento generale, tanto per parlare di traduzione. Allora, noi abbiamo cominciato a capire certi problemi, intanto quando ci siamo posti certi problemi all'interno anche del movimento, perché io quando leggo che la sua amante gli diceva siamo tutte negre, sai, mi riviene nello stomaco il fastidio delle compagne che ti dicevano siamo tutte lesbiche, sanato anche lì dall'affettività che ha Pompeo Magno e dal fatto che dividevamo tutto, perché poi quando ci hanno lanciato le bottiglie siamo andati a mettere i manifesti del convegno lesbico, se ne sono prese pure loro le bottiglie, che è la stessa cosa di lei che lo sana in qualche modo, ma gli si piazza sullo stomaco e con l'amante che è Muriel, mi pare, Bianca. Allora, dico, noi non eravamo, abbiamo fatto una fatica mostruosa, anche il nostro approccio con le donne nere a Ginevra è stato tragico, perché io dicevo, vabbè, ma noi siamo venuti con l'autostop, sai, voi siete venuti con il borsa di studio, poi andai in giro per Ginevra e lì risistemava tutto, perché allora a Ginevra, a parte il quartiere delle, come si dice, delle ambasciate, non è che, cioè, uscivi fuori da lì e gli svizzeri ci andavano mica piano con, no, ce l'avevano già con noi che eravamo italiani, figuriamoci con le nere che giravano nei loro quartieri, fuori dal quartiere. Oggi noi abbiamo di fronte un'Italia che, a parte grazie alle molte che si sono prodigate, lei poveretta per prima, a tradurre, far tradurre, portare in giro, eccetera, una cultura altra, dove certi discorsi erano assolutamente già entrati per la vita che facevano, cominciamo a vedere certe cose semplicemente perché oggi i migranti di colore ce l'abbiamo, e comunque non sono migranti che hanno la schiavitù come retaggio, e già lì c'è una differenza. E quindi forse oggi è importante Lord, perché anche, come dire, una persona non particolarmente interessata o a problemi lo capisce, mentre forse allora sarebbe stato un'altra cosa sprecata. Come sprecata è stata quella magnifica traduzione di Fiocchetto, e stranamente Juliet Travers insieme a lei, sull'erotico come potere, che è stato assolutamente travisato. E poi ne parliamo se volete. Allora, intanto grazie a questa piccola escursione di Simonetta, e già ci dice delle cose. E sì, interessante, sono interessantissime le considerazioni che ha fatto Elena, e naturalmente la nerezza, per esempio, non si può nascondere come il lesbismo, e quindi quella te la porti dietro. Detto questo, ancora la nostra voce narrante leggerà qualcosa e poi passiamo a Simonetta. In qualche modo sapevo che quella differenza sarebbe stata un'arma nel mio arsenale quando il momento sarebbe arrivato. E il momento sarebbe di certo arrivato in un modo o nell'altro. Il momento in cui mi sarei dovuta proteggere da sola, anche se non sapevo come o quando. Per Flea e me, le forze del male sociale non erano teoriche, non erano lontane e nemmeno puramente burocratiche. Il dolore era sempre a un passo di distanza. La differenza me lo aveva insegnato attraverso la bocca di mia madre. E sapendo questo, credevo di stare in guardia, protetta. Dovevo ancora imparare che sapere non è abbastanza. Tutte le donne del nostro gruppo davano per scontato che stavamo tutte dalla parte del giusto, e così avrebbero risposto dietro precisa domanda. Ma la natura di quel giusto, dalla cui parte stavamo presumibilmente tutte, era sempre innominata. Era solo un altro modo per evitare silenziosamente di dover esaminare quali fossero i nostri posizionamenti concreti all'interno del nostro piccolo gruppo di lesbiche, dipendenti come eravamo dal supporto delle altre. Avevamo troppa paura che quelle differenze potessero essere di fatto inconciliabili, perché non ci erano mai stati dati gli strumenti per affrontarle. Per ciascuna di noi l'individualità era molto preziosa, ma lo era anche il gruppo, e lo erano le altre outsider che avevamo trovato per condividere alcuni aspetti più sociali della nostra solitudine. Essere ragazze gay senza regole stabilite era l'unica differenza che ci davamo, il permesso di vedere per legare l'una all'altra. Non appartenevamo a quell'altro mondo e volevamo credere che fossimo dunque libere, per definizione, dai problemi dell'altro mondo, di capitalismo, avidità, razzismo, classismo. Non era così. ma continuavamo a vederci e mangiare insieme e in generale a condividere le nostre vite, le nostre risorse, come se lo fosse. E adesso andiamo alla domanda consueta. Nella preparazione di questa pomeriggio, questa presentazione del libro di Zani, ci siamo sentite ovviamente e quindi abbiamo anche discusso di alcune cose. E infatti con Simonetta abbiamo parlato di appartenenza conflittuale, cioè lei è interessata a parlare con noi di appartenenza conflittuale ed è questa la sua proposta e noi ben volentieri ne prendiamo atto. E quindi puoi spiegarci per te che cosa significa? Allora, io sono interessata alle appartenenze conflittuali, perché mi sembra che in questo momento non se ne parli proprio. Allora, per loro, e i pezzi che sono stati letti da Nancy individuano proprio questo, cioè nella costruzione di una soggettività, quello che interviene non è un mondo granitico, un'identità granitica. Esistono appunto appartenenze che sono di carne, di sensualità, di vite, di affetti, che confliggono non solo dal punto di vista sociale, che è il problema che appare soprattutto a noi ignoranti di quel periodo, che ci viene sbattuto in faccia di come una società strutturata in quella maniera avessero queste appartenenze conflittuali dei riflessi sociali incredibili, ma sono anche appartenenze conflittuali nel senso interno, perché il conflitto per Lord nasce dal conflitto con la madre, che lei tenta in ogni modo di risolvere, ma che conflitto è e conflitto resta. Questa madre che dice non ti fidare dei neri, perché più uno è nero più è malvagio, e lei è quella più nera della famiglia, ed è la stessa cosa che succede, cioè il razzismo interiorizzato è la stessa cosa, ancora peggio lì credo, non so se è ancora peggio, che succedeva a Franz Fanon, lo psicanalista che scrive pelli nere, maschere bianche, che la madre era bianca, lo guardava e gli diceva tu sei il più brutto dei miei figli, e lui era più nero. Cioè, voglio dire che con questi questa non è solo una contraddizione in termini razziali, è una contraddizione con l'affetto che colpisce, come dire, la dimensione del, cioè come lo deve vivere sto materno. È sbagliata lei per la madre, non ci vede, impara a parlare a 4 anni, pare che impari a scrivere, cioè quindi non capisce mai le scelte di vita della figlia, fa l'unica cosa che spesso le madri che odiano le figlie fanno, che la spinge a studiare, la spinge ad andare avanti, no? Io l'ho trovata in tantissime biografie di donne odiate chiaramente dalle madri, che almeno o per motivi di permenismo sociale almeno ti fai la disgraziata, ma almeno ti fai la posizione, però comunque quindi lei ha questa spinta della madre che la manda avanti, questa negazione della madre che tanto non capisce la sua vita, non capisce, cioè non è un'alterità che la madre non riesce a cogliere, ad accettare fino in fondo, e con questa contraddizione farà i conti per tutta la vita, perché recupera il mito e finisce nel mito, che è la parte un po' più contraddittoria. Io so che appassiona questa cosa, però è la parte più contraddittoria di Lord, perché lei che vive e continua a porsi tutte queste appartenenze conflittuali come motivo di conoscenza, come forza che la rende forte, che la rende, cioè, e che nel conflitto vede una modalità intellettiva. A un certo punto non sa più come mettere insieme queste cose, e le mette insieme in un mito, o nel mito. E spesso quando lei parla, cioè il primo viaggio che fa, quando prima di andare, a parte il Messico per lei, la libertà, perché vede tutta questa, perché c'è una maggioranza di gente di colore, no? dai latini ai neri, eccetera, che hanno la stessa origine, perché nei Caraibi i Caraibi sono stati sterminati dai francesi, non c'erano più, quelli che c'erano erano solo gli eredi, i successori dei schiavi africani, e subito ci sbatte il naso, perché poi la comunità bianca è una comunità contraddittoria, in qualche modo anche straniante. Quindi il mito gli serve in qualche modo per rimettere in piedi tutte queste appartenenze che gli confliggono in continuazione, in cui però lei continua a vedere una scelta etica. E ritorniamo all'erotico come potere. Quando io ho sentito, tira fuori questo pezzo di Lord, nelle maniere più strane e più assurde, dal post porno in poi, ma ha scritto il contrasto. Cioè, per lei, quando parla di erotico, parla di quello che noi nel femminismo chiamiamo sessualità, no? E che diceva, è una forza etica, è una forza di cambiamento, è una forza che deve significare in quanto ti rende consapevole di te e come dire, in grado di affrontare il mondo usando quello che ti hanno buttato addosso come sciagura, usandolo come forza. Non parla di erotismo, davvero, che fa una distinzione tra sensazione e erotico. Noi non useremmo quel termine, però quello è. Allora, il problema a un certo punto, quando tira fuori questa cosa del mito, io faccio fatica, capisco di più e mi appartiene come dimensione il fatto che lei, per esempio, usi continuamente la poesia, perché la poesia è lo scarto tra la logica e il sentimento e la potenza interiore. Non a caso all'inizio, cioè, dico, è una visionaria lei quando scrive, e noi di visionari abbiamo avuto bisogno nel movimento. Io non so voi, ma all'inizio del movimento, io che sono strutturata sulla logica e quindi al movimento mi sono avvicinata con la logica, e quindi con Carl Alonso e con Sputiamo su Hegel, che apparteneva al mio tipo di cultura e mi è sembrata pura poesia logica, ma pura poesia, no? Però dico, anche all'inizio del movimento noi abbiamo seguito gente che era visionaria, perché aveva una visione, e guardala lì, ecco, non a caso poi scrivono poesie, ma non solo quello, voglio dire, no? Allora, Lord è una che ha una visione e che ha preciso questo senso etico della sua sessualità. Oggi, in cui stiamo, in cui non si approfondisce più niente, se non una parte molto limitata, e devo dire molti allievi di Alborghi e di Villa Fiorelli, che è un suo merito, ma anche merito loro, in cui tutto sembra uguale a tutto, tutto ricade sul consumismo assoluto, tutto viene banalizzato e il conflitto viene completamente eliminato. Mentre rileggere Lord oggi è dire, ma questo conflitto lo vogliamo andare a vedere e, come dire, anche fra di noi articolarlo. Allora, io lo vedo soprattutto nel discorso qui, nella vulga, state attenti, nella vulgata qui, no, perché non sto parlando del queer declinato da Francesca Manieri e Olivia, come si chiama, Ferilli, o da Marco Fiorilli, scusate, o da Marco Bustianaz, che è tutta un'altra storia, ma la vulgata queer, non a caso Francesca e Olivia hanno scritto quel pezzo bellissimo, credo che abbiano fatto a settimana lesbica quel discorso, cinque giornate, sì. Dico, dove dicono, la pompa di benzina, quella che io chiamo la pompa di benzina, LGBT, che ogni tanto ci attacca a qualcosa, c'è questo qui, il posto sbagliato, no, il posto strano, aspetta un po', del Q. C'è il titolo, è meraviglioso. È lo scomodo posto della Q. Allora, c'è questa Q, che è un'altra identità, ma com'è possibile se il queer è anti-identitario, come dire, per struttura teorica? Allora che cos'è? Una cosa politica, un soggetto politico, ma il soggetto politico azzera tutte le differenze se quello è un soggetto politico. Dove va messo sto Q in questa serie di sigle? Che è semplicemente reinserire un concetto che in qualche modo, in maniera diversa, viene fuori dal discorso di Lord, che è il conflitto interno ed esterno. E secondo me oggi siamo in grado di capire Lord e di rimetterla in discussione, proprio perché c'è questa banalizzazione e questa riduzione al consumistico di qualunque cosa. Quindi in qualche modo questo è utile, proprio perché nella realtà di oggi sono utili queste donne che chiaramente appartengono a un'altra dimensione, cioè erano più avanti di noi e hanno fatto dei discorsi, delle riflessioni molto prima di noi. Però oggi andare a rivederle, quando tutta, cioè oggi non si parla di teoria, salvo poche persone, si parla di qualche cosa di masticata. È quello che dicevi tu su Lord, ce l'abbiamo avuta come mito perché c'erano le frasette attaccate, è vero, cioè, e anche travisate. Allora una lettura seria oggi significa andare contro una banalizzazione teorica che è assolutamente spaventosa. E allora forse quella è l'ABC, ricominciamo dall'ABC. Brava Pisa! Allora, ovviamente qui si apre il dibattito tra le due relatrici. Vai Eliana! Allora, innanzitutto Simonetta, grazie che hai tirato in ballo il conflitto, perché noi che l'abbiamo vissuto per anni non ce ne siamo mai potuti dimenticare della sua esistenza. Comunque, io invece volevo riportarvi un attimo, per un attimo solo, indietro, a dirvi che quando noi stiamo parlando di voi avete sentito chiaramente. Una cosa è parlarne ora, tra di noi, con quello che siamo e quello che noi sappiamo. Una cosa è considerare quello che è già stato detto, una, la nostra lettura e rilettura negli anni 70 e 80. Due, il fatto che lei, sapete, è morta all'inizio degli anni 90, la sua produzione critica va praticamente dalla metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 80, quando lei poi è in Germania, malatissima, continua a scrivere, scrive delle cose bellissime, avete letto i diari del cancro, eccetera, eccetera, quelle li conoscete, però sostanzialmente il periodo è quello. Quindi noi dobbiamo leggere in contesto. Allora, quello che tu dicevi, Simonetta, rispetto al mito, normalmente mi avrebbe trovato assolutamente consenziente, anzi con molto piacere. In questo caso io però ho dovuto ricredermi quando, appunto, leggendo e imparando delle cose. E tra l'altro vi faccio subito una parentesi dicendo che nell'ultima settimana io mi sono detta di aver fatto un pessimo lavoro di editing di Audre Lorde, perché praticamente alla fine degli anni 70 Lorde comincia a lavorare con sempre donne lesbiche oppure di colore, diciamo così, che poi alcune sono teoriche, altre no, eccetera, eccetera, e fa parte di questa famosa Combahee-River Collective, che tira fuori la teoria una delle teorie sull'intersezionalità. Ma una delle persone che io poi ho incontrato e frequentato quando ero a Boston, che era una delle persone, Barbara Christian, che ha scritto varie cose, eccetera, eccetera, erano due sorelle in realtà, questa è una delle due, tira fuori, pubblicata dalla Feminist Press nell'82, quindi pensate un attimo, Lord sta scrivendo nel 79, Zami, va bene? Questo libro esce nell'82, quindi capite, in contemporanea esce un libro che che dice, fate conto, tutte le femministe sono bianche, ma alcune di noi, but some of us are brave, ma alcune di noi sono coraggiose. Ed è in realtà un libro che io avevo letto allora, ce l'ho a casa, l'ho comprato allora, eccetera, eccetera. Ma soltanto l'altro giorno io ho aperto e ho capito cosa c'era dentro. Cioè, dentro c'è una serie di introduzioni e poi le editrici, tra cui la Barbara Christian e un'altra storica famosa, tirano fuori liste dei corsi di studi sui neri, sulle nere in realtà, per corsi femministi in gran parte, che erano stati tenuti in America dalla fine degli anni 60 fino a quel momento. Non stiamo parlando di una quantità spropositata, ma io ho sempre letto Audre Lorde. All'interno, infatti lo vedete da quelle pagine ultime, eccetera, eccetera, all'interno di una tradizione di studi neri che, di cui lei era una delle fondatrici. Non mi ero assolutamente resa conto che alle spalle non c'era soltanto la produzione chiaramente delle donne allora femministe che stavano combattendo proprio all'interno del movimento per i diritti civili per essere delle femministe, perché veniva considerato un tradimento dai maschi naturalmente una cosa del genere, ma la costruzione di questo movimento lesbico nero di cui effettivamente Lorde è stata una delle fondatrici, forse la più importante. Dietro c'era già una storia che io non conoscevo. Allora, in quest'ultima settimana, sentendo che proprio, io dico, ma come ho fatto con tutti gli anni che ho lavorato sulla letteratura nera e la storia naturalmente americana, non sapere queste cose, o perlomeno non averle mai considerate. No, quello che mi dicevo, allora, il discorso del mito a questo punto per me è assolutamente irrinunciabile collocarlo esattamente nella situazione di quel momento. Allora, Simonetta diceva giustamente, anche Elena dicevano giustamente, l'immigrazione nostra non si basa sulla storia della schiavitù e dei neri americani, oppure di tutti quelli che praticamente discendono dall'Atlantico nero cosiddetto, cioè poi non è stato soltanto l'Atlantico ma anche varie altre parti del mondo che hanno subito oppure che hanno vissuto questa forma di colonizzazione a oltranza che implicava la presenza della cosiddetta forza lavoro nera. Va bene? Se voi pensate a quello che sta facendo Lorde, andando in Africa e cercando di ricostruire le proprie radici, passando attraverso la Granada, quella è la cosa veramente importante, perché in America i neri americani non sono i caraibici americani. La creolizzazione è già una cosa, diciamo così, di un'altra classe, non solo è successiva, ma ecco, la cosa estremamente interessante, cioè sono praticamente delle stratificazioni culturali, è come una classe in più rispetto alla cultura nera, quindi è vero che loro abitavano a Harlem e quindi facevano parte di un certo tipo di cultura, ma se voi leggete la letteratura delle caraibiche immigrate che dovevano per forza chiamarsi Black American perché era quello che passava per una definizione, un'identità, ma in realtà non era quella, tant'è vero che dopo un po' anche lei comincia a dirsi caraibica e non si dice più nera, e quando poi si dice nera ma nera caraibica, e quando poi alla fine della sua vita tornerà non soltanto a Grenada, che nel frattempo era stata invasa dagli americani, una di queste cose assolutamente pazze del colonialismo americano, come lo volete chiamare, ma andrà proprio a vivere lì e lei morirà in realtà a Saint Croix o Saint Croix, come si chiama. Voi vedrete che lei ha recuperato, diciamo così, una proprio, come si può dire, una genealogia che è in realtà una genealogia lesbica. Lei sta costruendo un'altra identità che lei dà, regala se volete, alle persone che la leggano, e tenete presente che già a quei tempi lei era veramente una guru in un certo senso. Le persone arrivavano da tutte le parti per sentirla parlare, quindi questo libro è in un certo senso qualche cosa che dava, offriva una nuova identità, una identità, diciamo così, che recuperava una genealogia che invece di essere post schiavitù diventava una genealogia alta, nobile, nella quale riconoscersi. Quindi il mito in questo testo è un discorso politico fortissimo. Ecco, era questo che volevo dirti, Simonetta. Io ci sono arrivata con difficoltà. Sì, ho capito, Liana, però cioè, è un discorso. È un discorso fortissimo all'interno, come dici tu, di una classe di reddito anche. Cioè è un discorso per mitico che riguarda un insieme, una collettività di donne che sono politicizzate, che sono. Ma non è che risolve il problema del conflitto se non. Come dire, come un modo di uscirne di quella specifica fetta, non lo so, da qualche parte a me questa cosa mi fa, è come se abbia voluto, sì, io capisco che cosa la muoveva, però in realtà lei con questo rifà una composizione dopo essere stata una delle outsider del sparigliamento, e questo mi fa strano. Cioè me la rende meno comprensibile. Possiamo arrivare a un compromesso? Allora, non importa tra tutte le centinaia di cose che lei tutte le volte dice sono questo, poi dice sono tutte queste cose insieme, la casa delle differenze, eccetera eccetera. Allora, questo punto è una poeta che scrive anche di mito, dall'altro questo è accettabile. Che lei sia una poeta che scrive di mito, ma poi alla fine lei ne fa qualcosa di più, perché ripeto, la poesia è scarto e come tutti gli scarti è, ma quando ne fai una teorizzazione è un po' diversa la storia. Che è una poeta che scrive di mito, sono d'accordo con te. Questo lei non può essere altrimenti una poeta segreta, però voglio dire, se lei è presente un'altra cosa, cioè le sue difficoltà con la lingua, lei non parla fino a una certa età, e poi lei dice che quando a un certo punto lei riusciva a parlare soltanto scrivendo poesia, cioè nemmeno parlare, e passava addirittura giorni e giorni, e poi finalmente uscivano dei versi, usciva una poesia. Quindi è vero che poesia e mito in questo caso vanno insieme. Ha cominciato a parlare a 4 anni? Sì, a 4 anni. Non aveva niente da dire. Ma è una delle ipotesi che lei fa. Forse non aveva niente, oppure forse aveva paura che quello che avrebbe detto sua madre gli avrebbe fatto il contropelo. Ma qualcuna vuole dire qualcosa da... No, anche no? Qualcuno di voi vuole dire qualcosa, domande oppure considerazioni su Lord? Però una considerazione interessante rispetto alla relazione con la madre e il conflitto con la madre di cui parlava Simonetta, almeno noi anche ieri sera ne parlavamo, abbiamo fatto la riunione e cercavamo un po' di dare anche le somme della giornata di oggi, eccetera. Ed era questo aspetto, no? Quando Lord non è mai arrivata, o perlomeno non ha avuto strumenti che la madre o il padre le avessero fornito rispetto al razzismo. Perché, come dice Lord Inzami, la madre, se viveva una realtà, quella razzista di quegli anni ad Harlem, non le piaceva, lei reinventava la realtà, quindi quella realtà che viveva non la vedeva, non la voleva vedere, tantomeno la faceva vedere alla figlia. E quindi Audrey si è trovata a subire il razzismo, per esempio quando andava a scuola, eccetera, in vari episodi, che poi quando leggerete il libro, insomma, se, o chi l'ha già letto, insomma, li può ricordare, per i quali lei era veramente senza strumenti, senza... E intanto c'era quindi anche l'ideologia dominante e più la madre e il padre che non le fornivano degli strumenti. È la stessa cosa, dicevamo ieri sera, che succede alle donne rispetto al sessismo. Cioè, quindi quando poi parliamo di strumenti da acquisire e di analisi da fare rispetto ai livelli di oppressione, che sono molti, sono con diverse sfaccettature, dobbiamo tenere presente anche questo, e cioè che il sessismo viene dato come un dato di fatto, un dato di realtà che molte donne non vogliono vedere, e anche noi, cioè poi alla fine se noi stare incacchiata tutti i giorni vedendo, che ne so, io dico sempre il cartellone pubblicitario con una donna, l'immagine di una donna sbattuta là come merce, cioè ti incazzi, no? C'è niente da fare. Per cui metti in essere una certa sordità, e questo è quello che ci insegna la cultura dominante, questo è un elemento, e quindi è un ulteriore elemento di riflessione su il pensiero dominante e quanto sul pensiero dominante si metta in atto, non so, degli aggiustamenti personali per sopravvivere. Era così. Allora, io vi chiedo veramente di andare a leggere, quando leggerete Sorella Outsider, in particolare quello che avevo detto proprio all'inizio su Malcolm X, c'è un particolare saggio in cui lei parla di quello che abbiamo imparato negli anni 60. È in realtà Harvard, è una giornata in onore di Malcolm X, e lei parla appunto di se stessa, del razzismo, di come ha vissuto il razzismo e di come politicamente lo si può interpretare in quegli anni. Cioè, siccome noi parliamo di Zami, io certo, però vi invito per guardare e vedere con quale tipo di materialismo teorico lei in realtà, in modo molto semplice ma estremamente preciso, affronta il discorso politico, a partire naturalmente dalla classe, dall'economia, così via. Ci sono molte ore loro. Posso offrire a Borghi un'ipotesi di compromesso? Sì, era un groviglio di conflitti. Dovete sanarlo questo. No, ma non è necessario sanarlo questa sera, no? Penso che possa andare bene così. E vuoi leggere un altro pezzo? Allora direi che in questo conflitto cosa ci rende tutte tranquille e serene? Il sesso. Dove si dimostra che l'erotismo non è soltanto etico. Oh. Liana ti adora questo momento. Perché io non è soltanto etico. La stanza di Ginger era al piano di sotto, nella parte anteriore della casa, con un'entrata a parte. Era piuttosto appartata dal resto della casa quando tutti erano andati a dormire. Quando Ginger finì di fare la doccia, io ero già a letto. Ero sdraiata con gli occhi chiusi, chiedendomi se potevo fare finta di dormire e, in caso contrario, quale sarebbe stata la cosa più sofisticata e lesbica da fare. Ginger ci stava mettendo molto più tempo del solito a prepararsi per la notte. Stava seduta al tavolino a spalmarsi le gambe con la lozione e a farsi le trecce, canticchiando frammenti di canzoni sottovoce, lucidandosi le unghie. I saw the other life, the only two me apart. Questa la dedico a Ginger. Fra le ansie dell'aspettativa sulla mia prestazione, iniziai a sentire la crescente eccitazione del ritorno dalla collina. Metteva alla prova il groviglio di terrore che sentivo al pensiero delle aspettative sconosciute di Ginger, al pensiero dell'incontro sessuale, al pensiero di essere messa alla prova e di non essere all'altezza. Mi arrivavano piccole folate di odori di borotalco, cashmere bouquet e sapone camai da Ginger, che muoveva il braccio avanti e indietro, facendosi le unghie. Perché ci metteva tanto? Non mi rendevo conto che Ginger, nonostante si mostrasse calma e disinvolta, era nervosa quanto me. Dopotutto questo non era come giocherellare in fabbrica con qualche ragazzina di paese. Questo era andare a letto sul serio con una vera e propria camionista del Greenwich Village di New York City. Non vieni a letto? Chiesi infine un po' sorpresa dall'urgenza della mia voce. Stavo aspettando che me lo chiedessi. Con una risatina sollevata, Ginger si liberò della vestaglia, spense la luce sul comò e balzò nel letto a fianco a me. Fino all'istante esatto in cui i nostri corpi nudi si toccarono in quel vecchio letto di ottone che cigolava in quella veranda trasformata in stanza a Walker Street, Non avevo la minima idea del perché stessi lì e nemmeno del perché ci volessi stare. Non avevo idea di cosa significasse fare l'amore con una donna. Sapevo solo, vagamente, che volevo che accadesse e che era diversa da ogni altra cosa io avessi fatto prima. Allungai il braccio e lo misi intorno a Ginger. E oltre l'odore di borotalco e sapone e crema per le mani, potevo sentire la crescente fiamma del suo fuoco speziato. La presi fra le braccia e diventò preziosa, senza pari. La baciai sulla bocca, questa volta senza pensare niente. La mia bocca si spostò sulla fossetta sotto il suo orecchio. Il fiato di Ginger mi scaldò il collo e prese un ritmo più veloce. Le mie mani si spostarono giù sul suo corpo, rotondo, setoso e fragrante, in attesa. Incertezze e dubbi rotolarono fuori come un masso dalla foce del mio desiderio e la mia insicurezza si dissolse nel fuoco guida del mio desiderio, onesto e finalmente aperto. I nostri corpi scoprirono i movimenti che servivano a fonderci. La pelle di Ginger era dolce, umida e soda come una pera invernale. La sentì e la assaporai profondamente, nelle mie mani e la mia bocca e il mio corpo, tutto si muoveva sopra di lei. La sua carne si schiuse a me, come una peonia, e le profondità fiorenti del suo piacere mi ricondussero al suo corpo ancora e ancora per tutta la notte, il recesso delicato fra le sue gambe, umido e celato dalla folta peluria riccia, nera. Mi tuffai nel suo umidore, la sua fragranza, l'insistenza serica dei ritmi del suo corpo che accendevano le mie brame, lei e io cavalcando la brama dell'altra. Il suo corpo rispondeva alla ricerca delle mie dita, della mia lingua, del mio desiderio di conoscere una donna ancora e ancora, finché lei si inarcò dal arcobaleno ed io, tremante, scivolai via attraverso il nostro calore per riposarmi sulle sue cosce. Riemersi ebra e beata, col suo ricco sapore di mirra nella bocca, in gola, sparso sul viso e la presa allentata delle sue mani nei miei capelli e i suoni senza parole del suo appagamento mi cullavano come una canzone. Una volta, mentre mi cullava la testa fra i seni, Ginger sussurrò: si vedeva che sapevi cosa fare. E il piacere e il godimento nella sua voce fecero rialzare la marea e io scivolai giù ancora una volta, il mio corpo sul suo, a vibrare come una campanella. Non ho mai messo in dubbio da dove venisse il mio sapere del suo corpo e del suo piacere. Amare Ginger quella notte fu come scoprire una gioia alla quale ero destinata. La sola cosa che mi chiedevo in silenzio era come avessi fatto a non capire che sarebbe andata così. Facendo l'amore, Ginger si muoveva come quando rideva, aperta e semplice, e io mi muovevo con lei, contro di lei, dentro di lei, un oceano di calore bruno. I suoni del suo piacere, gli intensi fremiti di voluttà che si susseguivano attraverso il suo corpo, sulla scia della carezza delle mie dita, mi riempivano di delizia e di una rinnovata fame di lei. La dolcezza del suo corpo che incontrava e riempiva la mia bocca, le mie mani, dovunque la toccassi, mi faceva sentire bene e completa, come se fossi nata per fare l'amore con quella donna e mi ricordassi del suo corpo, piuttosto che imparare a conoscerlo a fondo per la prima volta. Meravigliata, ma senza sorpresa, mi distesi infine tranquilla, con le braccia intorno a Ginger. Dunque era questo che avevo temuto così tanto di non sapere fare bene. Quanto sembrava ridicola e lontana adesso la paura che amare fosse fuori dalla mia portata, invece che un aprirsi e lasciarsi guidare dal desiderio stesso. Era così semplice. Stavo bene, che sorrisi nel buio. Ginger si strinse più vicina. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato